24 mattino con Irene Zerbini. Ed è arrivato anche il 5 agosto, è tempo di far tappa in Argentina. Anzi, è qualcosa di più di una tappa a Buenos Aires e dintorni, perché questa mattina, ancora una volta, continueremo il nostro viaggio con i corrispondenti stranieri, che un po' ci raccontano del loro paese, ma soprattutto ci raccontano come il loro paese vive l'Italia, quello che scrivono per i loro giornali, i pezzi che fanno per le loro televisioni, per le loro radio, i blog, l'internet, e di conseguenza riusciamo anche a capire meglio cosa dei nostri comportamenti in Italia possa colpire altrove. Ringraziamo questa mattina Elisabetta Piché, buongiorno. Buongiorno Irene. Elisabetta Piché, la corrispondente in Italia della Nación. Da dove vieni, Elisabetta? Hai una storia particolare. La mia storia particolare è quella di molti argentini, magari forse al rovescio, nel senso che io in realtà sono nata in Italia, però cresciuta e vissuta la maggior parte della mia vita in Argentina, quindi ho questo dualismo Italia-Argentina, se vuoi. Mi sento argentina in Italia, totalmente argentina, e se vado in Argentina mi sento italiana. Sono quelle cose che magari non si risolveranno mai, o forse solo nel lettino, cosa che sì, ancora di fronte non ho a uno psichiatra. Rassegnati, perché è proprio così per tutti coloro che sono portatori di doppia cultura, destinati anche in qualche modo a non essere mai soddisfatti né dell'una né dell'altra, perché vorrebbero inserire gli elementi positivi. Comunque, tu da quanti anni sei in Italia? Io sono in Italia dal 99. E dall'Italia racconti agli argentini quello che tu, avendo questa ricchezza culturale di prospettive, capisci può interessare loro. Per esempio, l'ultimo articolo che hai scritto dall'Italia. Io faccio, come potrai immaginare, essendo corrispondente a Roma, faccio molto anche Vaticano. E anche il mio giornale, essendo un giornale che non ha troppi corrispondenti in Europa, faccio un po' di tutto, nel senso che sono considerata corrispondente itinerante, quindi sì, ovviamente faccio molto Italia, molto Vaticano, molto Papa, però dal 99 in qua mi sono fatta tutte le guerre, Kosovo, Afghanistan, Iraq, molto Medio Oriente, quindi mi considero una corrispondente itinerante. L'ultimo pezzo che ho fatto, questo per spiegarti perché l'ultimo pezzo che l'ho fatto ieri era questa storia, questa smentita del Vaticano che stessero studiando soluzioni per i figli dei preti, diciamo i figli legittimi dei preti, e questa smentita. Poi l'altro giorno ho fatto anche un articolo, un pezzo sulla polemica che c'è stato con questo via libera che hanno dato alla pillola RU486, quindi mi occupo un po' di tutto, molto Vaticano, politiche, polemiche politiche, come tutti i corrispondenti di tutto il mondo negli ultimi mesi, molto Berlusconi, molto Daddario e tutte queste cose qua. E hai reazioni da parte del pubblico di Buenos Aires riguardo agli articoli che tu scrivi? Ricevi lettere, ricevi email, ricevi osservazioni? Adesso sì, devo dire che con ormai internet, quindi c'è anche ovviamente l'edizione online del giornale, dove i lettori lasciano moltissimi commenti. E c'è di tutto, lasciano sempre molti commenti, sempre sulle storie fatte sul Vaticano, sul Papa, ma anche su Berlusconi, e quindi sì, si leggono molti commenti. Sì, c'è sì, una sì. Grande attenzione naturalmente verso l'Italia, visto proprio la composizione, il DNA dell'Argentina. Elisabetta, ci sono più italiani a Roma o a Buenos Aires? Sicuramente a Buenos Aires, no. E a Buenos Aires, cioè in Argentina si calcola che ci sono, voi sapete, hanno votato anche lì gli italiani all'estero, cioè ci sono adesso dei senatori che rappresentano la circoscrizione estera, ma in Argentina col passaporto italiano, se non sbaglio, ci sono almeno 2 milioni di italo-argentini, molti che hanno avuto il nonno. Si calcola più o meno che la metà della popolazione argentina, che sono una cinquantina di milioni, 40-50 milioni, siano di origine italiana. Quindi immaginate, cognomi italiani, oltre a quelli col passaporto, immaginate quanti sono coloro che appartengono alle seconde, alle terze generazioni, che magari la cittadinanza italiana non l'hanno mai né rivendicata, né cercata, né chiesta, ma che in realtà sono portatori di una cultura. Tra l'altro l'influenza degli italiani si sente anche nella lingua, per esempio, che si parla nella capitale, il lunfardo. Esatto, il lunfardo, c'è un sacco di parole che provengono dall'italiano, poi c'è la Boca, gli Xeneises, quelli della Boca che erano del genovesi, del porto di Genova, quindi c'è moltissima... E uno quando va in Argentina si sente a casa, e anche un argentino che viene in Italia anche si sente a casa, e anche per queste... C'è molto in comune, per esempio il disordine, anche la burocrazia, molti difetti li abbiamo in comune purtroppo, Italia e Argentina. Senti. E anche di corruzione, di classe politica, purtroppo abbiamo molte cose in comune, Italia e Argentina. Ci fai qualche esempio di lunfardo, di termini lunfardo? Non vorrei, mi viene in mente uno. Non che le parolacce, una, chiaro. Infatti, no? Mi viene in mente uno che è una parolaccia. Il lunfardo, Bondi, l'autobus, per esempio, ma adesso. Come dite lavorare in spagnolo corretto? Lavorar. Lavorar, questo è lunfardo, no? Lunfardo. E invece in spagnolo? Trabajar, quindi l'influenza italiana si sente. Ma anche penso alle posate. Come dite forchetta in spagnolo? Tenedor. E in un fardo? E in un fardo no. No, come dite, non parlate di forchetta anche, avevo sentito. Comunque è molto interessante, avete una lingua molto ricca, bellissima, e si sente appunto questa comunanza di radici. Però l'Argentina è un po' trascurata dall'informazione italiana, sfogliando i giornali, seguendo... Un po' direi che sei stata benevola, perché un po' è un eufemismo. Io direi che è trascurata. L'Argentina purtroppo a me molte volte, poco fa ci sono state per esempio il 28 giugno scorso, elezioni legislative molto importanti, elezioni chiave in Argentina, era un'elezione di mezzo midterm, no? Però qua mi chiedevano vogliamo un po' di repercussione di cosa si dice là, questo prima che avvenissero, e io dicevo ragazzi qua nessuno totale dice disinteresse perché nessuno ne sa niente. Sì, poi dato che è stata una batosta per i Kirchner ci sono stati degli articoli nei principali quotidiani, ma prima proprio zero attenzione. E purtroppo si parla dell'Argentina solo sempre associandola alla famosa crisi economica, alla povertà. Quando se ne parla, insomma, si conosce poco ed è facile fare il cliché. Immagino questo ti faccia male. Sì, purtroppo è così. Ci sono pochissimi giornali. Veramente non c'è informazione sull'Argentina, salvo, come hai ben detto te, quando c'è la crisi, allora c'è la notizia che hanno mangiato nella Villa Miseria un gatto o hanno ammazzato una persona in disturbio, però non ci sono notizie, non solo dell'Argentina, ma l'America Latina in generale è molto trascurata, come mediaticamente molto trascurata, purtroppo, no? È vero, e tranne appunto quando poi si va a ricostruire l'infanzia di Maradona o di Messi. Ma sì. Vorrei chiederti anche questo contrasto: moltissimi argentini hanno lasciato o vogliono lasciare l'Argentina per approdare in Italia, cercano di farsi riconoscere la cittadinanza, sono figli o nipoti di italiani, e poi tu da qua osservi anche il malcontento invece dei giovani italiani che vogliono andarsene. L'hai mai raccontato questo sulle colonne del tuo giornale? Sì, sicuramente sì, ho fatto molti pezzi sui giovani italiani che sono giovani che tendono non contenti e che sognano di andare via dall'Italia, che qua non trovano lavoro, che qua sono considerati i mammoni o adesso non mi ricordo l'espressione usata anche per i giovani. Sì, mammoni. Quindi ho raccontato anche quello, e poi si può anche dire che quando c'è stata la crisi del 2001 e c'è stato questo esodo di argentini che avevano appunto un passaporto italiano. Devo anche dire che secondo dati del consolato eccetera, che non si può mai bene definire, perché dato che arrivano molti argentini col passaporto italiano non si registrano nemmeno, quindi non si sa neanche bene quanti argentini stanno in Italia per questo è motivo. Chiaro. Però mi dicevano che molti, e anche a me mi chiedevano, molti credono che l'Europa in generale e l'Italia in particolare siano il paradiso terrestre, che qua è molto facile, e io sempre cerco di spiegare un momento, guardate che qua è molto difficile, ci sono anche gli italiani, studenti che non trovano lavoro, quindi sì, se voi venite hai il compito di sfatare anche alcuni miti, tu da corrispondente da Roma per la Nazione. Voi avete un presidente donna, Cristina de Kirchner, e è un orizzonte ancora lontano naturalmente per l'Italia. Tu vedi quello che succede a livello di coinvolgimento delle donne in politica, come valuti la situazione femminile in questo paese? La valuto in quel senso lì, e credo che un fatto per cui l'Argentina possa sentirsi orgogliosa è questo fatto che è una società, malgrado i cliché che magari sì, è l'ombre macho eccetera, in cui la donna secondo me è molto più valorata di qua, e a volte, molte volte, parlando anche per esempio a studenti, quando mi chiedevano la mia esperienza, io quando sono arrivata qua come corrispondente e mi sono trovata con tutti i grandi corrispondenti di guerra italiani, perché ovviamente in situazioni di guerra uno cerca di unirsi con altri e lavorare insieme perché è difficile, ma tutti si sorprendevano, donna, e io devo dire che La Nazione è un giornale in cui io sono e siamo quasi tutte le corrispondenti estere donne. E questo è indicativo. Che io notavo che almeno nel settore che io mi muovo molto all'estero, guerre, Afghanistan, Iraq, mi muovo con i italiani, ce n'erano poche, degli italiani, erano quasi tutti maschi. No. È molto indicativo. Grazie, un'ultima domanda, qual è il prefisso per chiamare in Argentina? 0054 Argentina 11 Buenos Aires, e poi bisogna vedere quale numero stiamo cercando, chiaro. Grazie, è stato molto godibile parlare con te, e naturalmente buon lavoro, Elisabetta Picchè. Grazie a voi.